Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune rapide informazioni di servizio. Il nostro sito radio24.it. Navigando all'interno di questo sito potete scaricare le puntate di qualunque trasmissione e potete anche interloquire con i giornalisti che hanno un blog. Il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate anche sul sito del Sole 24 Ore o altrimenti con un qualunque motore di ricerca. Altra informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ebbene, questa mail è stata raggiunta alcuni giorni fa da un radioascoltatore, un giornalista di Napoli, che ci ha segnalato una cosa molto molto interessante. In una provincia, in una regione devastata dalla camorra, dai tanti e polverizzati clan camorristici, nascono, ringraziando Dio, delle iniziative validissime di giovani che vogliono alzare un muro contro l'illegalità dilagante in quella regione, in quella provincia, ma oramai in tutta Italia. Oggi, 21 giugno, nasce dunque un'associazione che si chiama Magna Grecia. Nasce in Campania e ha una missione molto ambiziosa, come ci scrive nella stessa lettera il giornalista Paolo Trapani, vale a dire diffondere e difendere la legalità nel Mezzogiorno. Un'iniziativa la trovo straordinaria, perché straordinari sono anche gli interpreti. Tra l'altro ho la fortuna di conoscere molto bene il giornalista Paolo Trapani, al quale do il buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Questa associazione Magna Grecia nasce con personaggi di profilo di rilievo, come vi dicevo. Tra questi personaggi e profili di rilievo c'è il presidente dell'associazione Magna Grecia, che è Giovanni De Stefano. Buongiorno De Stefano. Buongiorno a voi, grazie. Allora, De Stefano, lo dico per chi non ha memoria storica dei tanti fatti che accadono in Campania, è un ex consigliere comunale a Cercola, un comune in provincia di Napoli, che alcuni anni fa ebbe un'idea straordinaria. Disse: ma perché non apriamo uno sportello anti-usura qui nel nostro comune? Lui ebbe un'idea straordinaria. Il clan Sarno, un clan camorrista, ebbe un'idea ancora più straordinaria. Disse: va bene, apritelo, però mi raccomando, voi dovete essere le spie, le sentinelle sul territorio, dovete dirci chi è che viene da voi. Ovviamente De Stefano denunciò il tutto, ovviamente. De Stefano denunciò il tutto. Onore a dei politici che hanno questa forza in una terra dove purtroppo la politica viene anche mangiata e divorata dalla camorra. Probabilmente, poi glielo chiederemo, De Stefano, schifato dalla politica, si è ritirato in vita privata e giustamente adesso è presidente di questa associazione. Allora Paolo, partiamo da te, ci diamo del tu perché siamo colleghi. Com'è nata l'idea e qual è la vostra ambizione? L'idea è nata perché noi riteniamo che oggi ci sia un'emergenza non solo sociale e legale, ma ci sia anche un'emergenza di carattere culturale, quindi cerchiamo di partire nel nostro piccolo nel fare un'operazione di carattere culturale. Abbiamo messo insieme un gruppo di amici, di professionisti, oltre l'amico Giovanni De Stefano, che in collegamento ci sono dei giornalisti minacciati per altri motivi, da altri clan, e da altri, diciamo, soggetti che fanno della illegalità il loro mestiere. Abbiamo messo insieme anche degli amici avvocati, altri cittadini, perché riteniamo che, mettendo in piedi un'associazione che ha anche un nome simbolico, come tu hai poco fa riportato, Magna Grecia, si batte, si impegna per diffondere e al tempo stesso difendere il concetto della legalità sul territorio. Assolutamente. Sembra, diciamo, una battaglia banale, semplice, ma ti assicuro che nel nostro territorio, come in moltissimi altri territori del Sud Italia che tu conosci benissimo perché li segui con le tue inchieste puntualmente, non è facile partire anche dalle cose più semplici come il concetto di legalità. Assolutamente. Le cose che cercheremo di fare, infatti, sarà quella di aprirci al mondo culturale, alle scuole, alle università, per diffondere anche tra i più piccoli, tra le nuove generazioni, i concetti della legalità che oggi sono fortemente a rischio. Assolutamente d'accordo con te, Paolo. Bisogna partire dalle piccole cose, bisogna partire dalla scuola, lo dico sempre, lo ripeto sempre. Ricordatevi ciò che diceva uno straordinario scrittore, Gesualdo Bufalino. Diceva: la mafia si sconfiggerà con un esercito di insegnanti, quindi non con l'esercito o con le forze dell'ordine soltanto. A loro spetta il compito repressivo, ma la cultura di legalità è ciò che deve essere opposta. De Stefano, io dicevo forse provocatoriamente, ma mi piacerebbe che lei mi smentisse oppure mi confermasse in parte quel che io dico. Dicevo, forse De Stefano, schifato dalla politica, se ne è uscito e si è, come dire, ritirato a vita privata. È così, De Stefano, oppure ho esagerato? No, posso confermarlo a 360 gradi, ha detto bene. E voglio anche confermare quello che lei ha detto prima: iniziare sostanzialmente dalle scuole elementari a far capire che cosa significa la cultura mafiosa e che cosa significa la cultura della legalità. Noi diciamo che questo è un fatto un pochettino lungo, quindi voglio essere un poco sintetico. Io voglio solo far capire agli spettatori che sostanzialmente era un progetto che io stavo cercando di portare avanti dall'anno 2002, la prima volta che venne eletto come consigliere comunale nel mio paese a Cercola, in provincia di Napoli. Sì. Quindi dopo vari avvicinamenti, va bene, ci sono stati. Dopodiché l'ultima è stata clamorosa, quella là che si è svolta esattamente a luglio, dove lanciai solo esattamente un comunicato tramite i massimi dei giornali locali. Venne avvicinato da vari esponenti del clan, dove mi consigliavano sostanzialmente, qualcuno mi consigliava di dire: guarda, ma gli devo far fare, noi già stiamo un pochettino così per fatti nostri, quindi non sembra il caso. E certo. Da un lato e andai, e come andare. Poi dopo 2 o 3 giorni mi si avvicinarono e mi fu fatta questa proposta dalla moglie del boss. Certo. E le indagini ovviamente sono ancora in corso. E di questo non parliamo. Però le chiedo questo, De Stefano: in qualche modo voi dovrete purtroppo avere a che fare con la politica. Io so che il mio amico Oscar Giannino non ama chi generalizza sulla politica, non ama chi getta la croce addosso ai politici. Ma guarda, io posso dirle una cosa, sia dagli amici di maggioranza o dagli amici dell'opposizione, sostanzialmente non c'è stato un poco di solidarietà. Ho avuto più solidarietà, fantastico, dai sindaci degli altri paesi che non erano a conoscenza, che erano certo a conoscenza del fatto della cronaca, ma sostanzialmente che io non conoscevo nemmeno. Quindi certo, dire, beh, vabbè, politica, questa qui è una solidarietà facile: quando uno non conosce, prende e chiama, dice: oh, mi raccomando, hai tutta bene, la mia vicinanza. Altri, voglio dire, anzi, certo, io voglio ribadire una cosa: dove sono rimasto, è lì che sono rimasto talmente stufato dalla politica, che il primo cittadino del mio paese, dopo che seppe questa cosa, il primo a dire che non credeva in questo progetto era proprio il primo cittadino, dottore Amaro Pasquale. Questo me lo devi consentire di dire, perché questa è l'unica cosa per dove io, guardi, posso come dire, mi rende anche difficile dirlo, posso capirlo da tutti, va certo bene? I camorristi che ovviamente fanno il loro lavoro e quindi possono pensare che io posso dargli fastidio, ma che un sindaco di un paese dove le persone credono, noi diciamo sempre di credere nelle istituzioni, di credere nelle forze dell'ordine, di credere nella statura, certo, ma un primo cittadino che mi viene a dire, che lo lascia, sono dichiarazioni fatte da lui sui giornali, dove viene a dire: io non credo a questo progetto che De Stefano vuole fare. Fantastico, veramente fantastico, abbiamo una classe politica meravigliosa in Italia. E poi c'è appunto chi dice che non bisogna generalizzare. Per carità, non voglio generalizzare, non sono un qualunquista, però obiettivamente io provo ribrezzo per la gran parte della politica italiana, mettiamola così. Allora, dunque, Paolo Trapani, torniamo da te, ma dicevo a De Stefano la stessa domanda: avrete a che fare con la politica, non vi si rivolta un pochettino lo stomaco, oppure dovete fare di necessità virtù in quella terra? Beh, diciamo che qua noi, nel momento in cui mettiamo in piedi l'associazione, sappiamo che dovremmo nuotare in mare aperto, in un oceano sempre tempestoso, sempre agitato, e chiaramente la politica in questo contesto fa molto spesso poco per far calmare le acque o per far trovare, come dire, dei punti di approdo, di appoggio a chi appunto è chiamato a nuotare in mare aperto. Noi certo. Abbiamo fiducia di poter riuscire in questa difficile missione, sappiamo che la missione proprio perché è ambiziosa è anche molto complicata. Ecco Paolo, scusami se ti interrompo. Paolo, scusami se ti interrompo. Siccome siamo in conclusione, avete un indirizzo internet, un numero di telefono, una sede a cui dare, appuntamento ai napoletani, alla maggior parte dei napoletani, gente onesta e campani che vogliono venirvi a visitare e a far parte, perché no, di questa associazione? Sì, noi stiamo per creare un sito internet, un profilo Facebook e io comincio a dare appuntamento a tutti i cittadini, a tutte le persone interessate oggi pomeriggio, perché alle 5 sala conferenze che ci mette a disposizione gentilmente la WIL Campania, che si trova nell'area del porto di Napoli, svolgiamo questo convegno e cominciamo a incontrare i cittadini, le persone, gli amici e le istituzioni. Bene, quindi, allora oggi pomeriggio ore 17 presso la sala conferenze della WIL Campania a Napoli viene presentata un'associazione che si batterà per i profili di legalità in Campania, a Napoli e ovviamente non solo, l'ambizione abbiamo sentito è molto più importante. Grazie a Paolo Trapani, a Giovanni De Stefano, in regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani augurandovi una buona giornata.